FM. Flow, questi sono i Pearl Jam qui da Rock FM. Allora, ancora un buon pomeriggio da Edo Rossi. Allora vado a rispondere un po' di messaggi giunti al 335 100 77 77. Allora, dunque, cominciamo da dove eravamo rimasti prima. Dunque, vediamo un po'. Un saluto al grandissimo Fanello, grazie mille, grazie anche a te per essere sempre presente, caro Monsignore. Sì, poi ci sentiamo ovviamente attraverso rockfamily.it. Poi un saluto a Scendi, un abbraccio anche a te. Tiziano da Livorno dice: mi auguro che vi siate conservati un po' di energia anche per Pontedera. Caro Tiziano da Livorno, ma siete voi la nostra energia. Se voi arrivate con i sorrisi e con tutta quella... voi ci mettete i sorrisi nelle canzoni, una battuta di merda, pazienza, dai, lo stesso. Comunque voglio dire, ma figurati, ma pensa a te se non avremo energia in quel digello. Anzi, assolutamente sì. E ne approfitto per ricordarvi l'ultimissima data del farewell tour della Rock FM Stars Band, per incontrarci di nuovo di persona in quelle di dell'Area Jens a Gello, all'uscita di Pontedera in provincia di Pisa. Poi un saluto anche a Lorenzo da Cascina, dice: ci vediamo presto. Certo, ci vedremo presto, ci vedremo anche il 6 di giugno a Santo Stefano a Macerata, nel comune di Cascina in provincia di Pisa, dove sarò il 6 di giugno alla festa della birra con tanto di rock pit al seguito. Quindi anche Even Flow, che abbiamo sentito prima, non era trasmessa a caso. Infatti sarò lì con la mia band tributo agli anni 90, e si parla di Edocena. Quindi se abitanti del luogo o limitrofi volete arrivare magari anche un pelo prima, ci vediamo alle 20, facciamo una tavolata, ci facciamo una cena tutti assieme, due birrette, e poi si fa un po' di buon rock and roll. Poi un saluto alla Vale, che dice, prima ascoltando gli Elegance, dice: sembrano quasi Sepoltura, ma mi sembra di bestemmiare. Però effettivamente il sound era quello, il periodo era quello. Intoccabile ovviamente di Sepoltura, ma sicuramente gli Elegance in quel periodo si sono rifatti anche a quel tipo di immaginario. Sepoltura, dei quali ne parleremo domani, sempre all'interno del mio programma, insieme a Claudia. Ci sarà ovviamente una sorpresa e ne parleremo domani in modo più approfondito. Poi un saluto ad Ale da Milano, che dice: ciao Edo, avrei voluto rimanere un po' di più, ma a un certo punto non potevo stare in giro e sono dovuto andare a casa. Mi fa piacere averti conosciuto. Grazie anche davvero, Ale, fa piacere anche a me averti conosciuto. Grazie davvero per essere venuto. Poi un saluto a Rock Berta che dice: ti manca il mio autografo sul calendario? Ma è possibile? Ma com'è possibile? Assolutamente. Se vieni il 31 non mancherò di fartelo, ma scherzi, ma è un piacere per me. Poi un saluto anche a Filo, che dice: sta salendo la tensione per il 31 a Milano, stiamo già facendo i piani per venire su dalla Romagna. Secondo te 4 litri di Sangiovese a testa bastano? Ma non lo so, dipende quanto consumate al chilometro, perché pensate... No, vabbè, lo stesso. Grazie Filo, mi raccomando, fate i bravi qua sotto, che insomma l'ultimo giorno non vorremmo che succedessero dei casini. Comunque grazie ancora. Ancora Mike dice: porca miseria, pensare che quel CD degli Elegance ce l'ho anche, ma ora mi sono ricordato perché l'avevo ascoltato una sola volta e messo da parte. E sempre su quel pezzo, 16 dice: pezzo bello comunque, Nagia, ci potevo arrivare, però se pensavo ai tuoi ascolti invece di focalizzare bene il brano. Sei prevedibile, Edo. Ehi, io prevedibile, ehi baby, ehi, no way man. Grazie 16. Poi ancora un saluto a Paolo che... che dice che non mi hai visto a Milano? Ah, che non mi hai visto mentre mi tuffavo sulla folla. Vabbè, pazienza, sono riuscito a scattare un paio di fotografie mentre sono lì in mezzo con pancia per aria. Vabbè. Saluto anche chi scrive a edo@rockfamily.it. Però insomma sono molti messaggi, aspetta che li leggo con calma. Intanto ci facciamo un giro di Jeff Buckley. Goodbye. I hate to feel the love between us. us down, but it's over. Just hear this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know. Because I didn't know you at all. Jeff Buckley. Questa era Les, Goodbye, tempo di Tour de Force. Allora partiamo ricordando Big John Bates e le Voodoo Dolls che si esibiranno domenica prossima al Legend 54 di Milano. Passiamo al Rock and Field Festival il 26 di luglio all'Idroscalo di Milano con Epica, Halloween, Threshold, Vision Divine, Avantasia e Biomechanical. Passiamo a Rage Against You, tributo a Rage Against the Machine, il 16 di maggio al Flare Up Pub di Sori in provincia di Genova, sabato 17 maggio al Music Street Pub di, scusate, Lugnano di Vico Pisano. Passiamo alla Treves Blues Band che sarà il 31 di maggio a Paderno Dugnano in provincia di Milano all'Anfiteatro Parco Lago Nord. Vediamo altre segnalazioni come quella dei Rage Against the Machine che saranno il 14 giugno a Modena allo Stadio Braglia. Vediamo altre segnalazioni come quella dei Napalm Death che insieme ai Suffocation e Warbringer saranno il 22 di maggio al Circolo degli Artisti di Roma, il 23 di maggio al New Age di Roncade in provincia di Treviso insieme ai Cripple Bastard e il 24 maggio al Rock Planet di Pinarella di Cervia in provincia di Ravenna sempre insieme ai Cripple Bastard. Passiamo ai Meganoidi che il 15 di maggio suoneranno a Milano al Politecnico. I Negramaro saranno il 31 di maggio allo Stadio San Siro con special guest di tutto rilievo quali gli Hoosier, i Fratellis, i Fink e i Fashion. Santana sarà il 30 di giugno all'Arena di Verona. Passiamo ai Rush, anzi al tributo ai Rush, scusate, gli XYZ, che saranno il 24 di maggio al Fronte del Porto a Genova. I nostri amici Sud Sound System saranno il 16 di maggio a Firenze all'Auditorium Flog. Passiamo agli After Hours, che saranno martedì 13 maggio a Firenze al Sashole, e il 23 di maggio chiuderanno la loro tournée a Milano al Palasharp. Nick Cave and the Bad Seas saranno il 28 di maggio a Milano all'Alcatraz, il 30 di maggio a Sesto Fiorentino a Villa Solaria, il 31 di maggio a Perugia a Villa Fidelia e il 1 di giugno a Roma al Tenda Strisce. I Bad Religion saranno per un'unica data italiana il 16 di giugno a Milano al Rolling Stone. Come dicevamo prima, i Rock Pit, la mia band tributo anni 90, insieme alla Edo Cena, quindi venite alle 20 se volete cenare con me. Ci vediamo il 6 di giugno alla Festa della Birra di San Stefano a Macerata, comune di Cascina, in provincia di Pisa. E chiudiamo con l'ultima data della Rock FM All Stars Band, la nostra band aziendale, che sarà il 24 di maggio alla Regenza di Pontedera Gello, in provincia di Pisa. Il Tour de Force torna domattina alle 10.30 con Marco Gravelli. Rock. I'm done with the easy living. I'm done with the easy living. Come on. Calco mal destro dalla Volterra che conta, questa era fase 5 metabolismo. Tra l'altro ne approfitto per ricordare che anche loro faranno parte della nostra ultima settimana, e non solo faranno parte della nostra ultima settimana di onda, visto che verranno a trovarci esattamente martedì 27 maggio, ma perché poi ci sarà anche la famosa Nottedo, della quale sto parlando da qualche giorno a questa parte. Trattasi, visto che è considerato che tutti qua si prendono la notte, fanno tutti la notte, visto che siamo qua in chiusura, ci prendiamo questo gusto di trasmettere by night, come in realtà spesso insomma abbiamo sognato, dato che un po' l'immaginario della radio spesso è più notturno che diurno. Mi prenderò anch'io la mia notte, sarà appunto il 27 di maggio sera a partire da mezzanotte circa, e ovviamente sarà una serata dedicata molto anche alla jam session acustica, oltre al fatto che proprio mi prendo i miei dischi da chiavere, li porto qua e li metto in radio come facevo una volta, insomma. Allora, un saluto a Nico che dice: Edo, siamo venuti troppo bene nelle foto di venerdì, sembriamo due drogati. Grazie Nico, dobbiamo essere venuti proprio molto bene. Un saluto a Michele da Pistoia che mi chiede a che ora cominceremo a suonare al Gens il 24. Non ho la più pallida idea, ma penso che in genere quando abbiamo suonato lì abbiamo sempre iniziato intorno alle 22:30, una cosa del genere. Comunque voi trovatevi lì più o meno per quell'ora, poi insomma sai com'è, no? Quando c'è gente si comincia, insomma. Poi un saluto a Romina da Gibilterra, Belinda Gibilterra, grandissimo, grazie. Dice: purtroppo per motivi di distanza non potrò essere presente il 31, però vi seguirò in streaming con il cuore sanguinante in mano. Grazie per la Rock Family, noi poveri orfani avremo sempre un tetto sulla testa, corna al cielo e never give up. Certo Romina, grazie, e ricordiamo ancora una volta quindi il sito www.rockfamily.it, il sito dei DJ di Rock FM, che continuerà ad esistere anche dopo il fatidico 31 di maggio. Poi un saluto a Fregenhaus che dice: ehi Zach il Wild, mettimi sul conto la camicia perché te l'ho strappata io. Bene Fregenhaus, no, non voglio un risarcimento della camicia, voglio poterti strappare una camicia anch'io a questo punto. Dopo farai anche tu stage diving e io ti strapperò una camicia, insomma, così almeno ci siamo. Poi un saluto anche a Poiana che dice: bello il cappellino, grazie mille, grazie per la carica di adrenalina di venerdì sera. Comunque personalmente ringrazio Dio che non si sia buttato tra la folla e il Faulisi, porto i miei ematomi come stigmate di passione. Grazie Poiana, e dai, no, ce l'avreste fatta a tenere su anche il Faulisi, tranquilli, insomma, siamo un po', come dire, un pochino più pieno ottima, insomma, non vuol dire che, insomma, è il peso del rock and roll, insomma. Va bene, senti, tra poco parleremo con e conosceremo, faremo amicizia con il primo chef del Cosmo. Intanto ci andiamo ad ascoltare gli Arctic Monkeys. Tell the pocket. Si chiamano Arctic Monkeys, questa era Terry Picker. Allora, come detto, abbiamo ospiti in studio e allora gli do il benvenuto, anche perché arrivano anche da molto lontano, arrivano da Cagliari. Sto parlando dei Primo Chef del Cosmo. Ciao ragazzi, benvenuti. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, allora abbiamo Pasquale e Gippo. E Gippo, ok, bene. Allora, innanzitutto, guarda Pasquale, se vuoi girarti il microfono e mettertelo proprio in bocca, proprio sì, fallo violento intanto, anche se c'è rumore, pazienza, okay. Ok, perfetto, ok. Bene ragazzi, allora dunque siete arrivati alla realizzazione di un nuovo prodotto e facciamo giusto così quattro chiacchiere giusto per conoscere, poi gli ascoltatori di Rock FM sentiranno le vostre canzoni non solo del disco, ma ci suonerete poi anche qualcosa che manderemo prossimamente. Ora purtroppo Eclettica incombe e quindi dobbiamo fare la svelta, sennò Giulio Caperdoni ci picchia, però se vogliamo fare giusto una nota introduttiva sulla band. Ok, la band è una band che viene da Sassari, ti devo correggere. Ah, scusa, Cagliari era la masterizzazione, sì, giusto? Esatto, perdonami, esatto, perdonami. Parlavamo prima dello studio. Sì. Niente, noi veniamo da Sassari, questo è il nostro primo disco che esce in seguito all'uscita di un singolo che ha girato anche qua da voi fortunatamente nel 2006. Uh-huh. Niente, questo è il nostro primo lavoro, è un lavoro che esce per un'etichetta sarda di Cagliari, appunto, si chiama Desvelos Records. Uh-huh. Viene distribuito in Italia da Audioglobe. Uh-huh. È un disco che contiene 9 tracce, è un disco che abbiamo registrato noi insieme alla produzione artistica di Giovanni Ferrario. È un disco registrato interamente a casa, abbiamo allestito uno studio mobile in una casa in campagna a Sassari per 15 giorni, siamo chiusi là, quindi un'importante zona relax. Esatto. Ci siamo costruiti insomma una vacanza di lavoro di un paio di settimane, abbiamo tirato fuori queste idee, le abbiamo raccolte all'interno di questo lavoro. Bene, quindi immagino che insomma sia stata anche, come dire, non dico rilassante, però abbastanza naturale il modo nel quale sono venute. Sì, molto pezzi, naturale, no? Il modo che abbiamo seguito per lavorare, anche perché registravamo a metà strada tra il soggiorno e il giardino esterno, un po' sotto gli alberi, un po' al chiuso, insomma. Niente, no, molto bello. Abbiamo vissuto là insieme, cucinato, dormito, lavato i piatti e suonato. Bene, insomma, è stata appunto, come dicevi, una bella vacanza lavoro. Ti faccio subito un saluto da parte di Antlon, che è il nostro webmaster di rockfamily.it, al quale mando un grosso abbraccio, che dice: forza Torres, mitici, io sono di Osilo. Osilo. Okay. Sì, è vicino a Sassari. Okay, lo salutiamo caldosamente. Bene, ok. Che dire, quindi, insomma, arrivate alla produzione di questo disco, la domanda è pressoché banale, quali sono i vostri punti di riferimento? Ma punti di riferimento, dici, come influenze? Certo, musicali. Certo. Diciamo che le influenze sono varie, anzi sono svariatissime, perché... Hai sentito gli Arctic Monkeys che ha scelto Pasquale. Sì, gli Arctic Monkeys ci piacciono tantissimo, poi alla fine magari ascoltando il disco non troverete niente di, certo, Arctic Monkeys. Come spesso però, accade magari. Diciamo che abbiamo gusti molto, molto vari, che vanno dal rock anni 70 sino alle ultime cose, ma anche il cantautorato italiano fa, certo, parte del nostro background. Insomma, ascoltiamo un po' di tutto. Certo, c'è una base ritmica che è molto appassionata degli Stones e qualche cosa si può sentire, oppure altre cose anni 70. Comunque ascoltiamo un po' di tutto, alla fine la miscela che viene fuori quando suoniamo e registriamo è quello che si può ascoltare nel nostro disco, diciamo. Bene. L'attività dal vivo come va? Va abbastanza bene, anche se, come dice il nostro singolo, quanti mari devo attraversare. Siamo in Sardegna, quindi non viene bene a volte muoversi, però l'insularità, certo, a volte porta anche a una certa originalità per alcune cose. Comunque è un po' più difficile arrivare rispetto ad altre realtà nazionali. Certo. Va bene, quindi io non posso che farvi l'in bocca al lupo, perché siete, vi andate ad aggiungere alla lista di sconsiderati che ha deciso di fare un disco in Italia, quindi complimenti. Credi, ragazzi. Complimenti, tenete duro. Dove vi può trovare chi vorrà avere informazioni su di voi? Beh, sicuramente sul MySpace, www.primochefdelcosmo, vabbè, MySpace, solite cose, certo, Primo, sì, Chef, sì, del Cosmo. Comunque poi, vabbè, chi vuole trovare il disco può appunto richiederlo tramite il catalogo Audioglobe, e via, insomma. Benissimo. Se volendo ci si trova. Bene. Ok, io vi ringrazio, do l'appuntamento agli ascoltatori di Rock FM prossimamente con i Primo Chef del Cosmo, visto che ci registreranno un qualcosa solo per Rock FM che mostreremo e vi faremo sentire più in là, li risentiremo anche a distanza, tra virgolette, nella 24 ore. Vi rinnovo l'in bocca al lupo, andiamo a sentire una canzone tratta dal vostro disco che si chiama Estasi Pura. Grazie ragazzi, alla prossima. Grazie, ciao. Tra l'altro io vi saluto e vi lascio con il Primo Chef del Cosmo, ci sentiamo domani dalle 17 su Rock FM. Da Edo Rosso è tutto, buona serata.